Gazzettino del 2015. Gazzettino del 2015. 2 marzo 2015. Carta, caffè, cotone. Industrie più virtuose. Cala il costo ambientale. Si riduce l'impronta ambientale negativa di prodotti come il caffè o l'olio di palma. E questo perché le stesse imprese che coltivano e trasformano i prodotti stanno cambiando atteggiamento e si impegnano a fondo a razionalizzare gli sprechi. 3 anni fa il WWF, presentando lo studio Market Transformation sui costi ambientali di carta, caffè, cotone e olio di palma, aveva evidenziato che queste 4 commodities costano al pianeta 8 miliardi di metri cubi di acqua, 34 milioni di tonnellate di CO2 equivalenti in atmosfera, 8,5 milioni di ettari sottratti ad agricoltura e biodiversità. Ora, questo prezzo ecologico del nostro modello di sviluppo si sta abbassando, nonostante il mercato non abbia frenato la sua curva in leggera crescita. Tra le imprese protagoniste di questa svolta, molte sono italiane e Italiana era la prima ad aver iniziato questo percorso fin dal 2012. Fin qui la notizia del 2 marzo 2015, ma come sapete il futuro ha radici nel presente, in questo 2012. Nonostante i pessimi dati sul fardello ecologico delle principali commodities mondiali, alcune imprese stanno cambiando rotta, lo dice Gianfranco Bologna, direttore scientifico del WWF. Sicuramente c'è una sensibilità molto più diffusa e c'è un desiderio da parte delle imprese, almeno di parte di esse, a fare in modo che quello che viene realizzato nel concreto sia monitorabile, riscontrabile, trasparente, quindi qualcosa che nella realtà abbia luogo e non sia semplicemente un greenwashing, quindi una tinteggiatura di verde. Oggi noi stessi come WWF avviato dei percorsi molto interessanti, per esempio per quanto riguarda la carta e la polpa di carta con Sofidel, che è una delle grandi compagnie europee che si occupano proprio soprattutto del tissue, che va proprio nelle varie direzioni, sia della riduzione dell'impatto nei confronti dell'uso di carta e polpa di carta che non provenga da coltivazioni che siano certificate, ma anche per quanto riguarda le emissioni di gas come l'anidride carbonica, in genere gas climalteranti, nell'atmosfera. Quindi sono percorsi che vanno nella riduzione di queste impronte, di questi fardelli, di questi zaini ecologici che si porta dietro il prodotto e che quindi, ci auspichiamo, sicuramente nel futuro saranno ancora più significative in termini di riduzioni percentuali. È tutto per questa puntata del Gazzettino del 2015, condotta da Anna Rita D'Ambrosio e curata da Paolo Piacenza. Se volete scriverci, potete farlo all'indirizzo mail gazzettino2015@radio24.it.